Europa 24. E buona giornata anche da Anna Migliorati. The union has demanded and expects full and urgent clarification by the US. L'Unione ha chiesto chiarimenti e si attende piena e urgente risposta dagli Stati Uniti. Il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha ribadito così la posizione dell'Europa, ferma nel chiedere a Washington parole chiare sullo spionaggio nelle sedi europee. Preoccupazione ribadita anche dal Presidente della Commissione Barroso, aprendo questa mattina i lavori all'Europarlamento. Non è questo che ci aspettiamo da amici e alleati, ha detto. I capogruppi dell'emiciclo di Strasburgo hanno chiesto alla Commissione una reazione e si sono detti arrabbiati e oltraggiati. L'alto rappresentante per la politica estera europea, Catherine Ashton, ha già preso contatti con le autorità americane. Sul tavolo c'è la trattativa sul libero scambio tra Europa e Stati Uniti. E ai nostri microfoni parla il commissario per l'industria, Antonio Tajani. Tra amici serve sempre la trasparenza, quindi vedremo cosa diranno gli Stati Uniti, quale informazioni daranno su questa vicenda che è stata raccontata dai giornali. Certo, è qualche cosa che non fa piacere, se fosse vero, ma bisogna capire bene chi ha disposto l'iniziativa, a che livello, cosa realmente è successo. Non si tratta, se fosse vero, di un qualche cosa di piacevole, però dobbiamo sempre ricordare che gli Stati Uniti sono nostri interlocutori privilegiati, sono nostri amici, quindi dobbiamo essere fermi nel tutelare i nostri interessi e la trasparenza, però insomma aspettiamo di vedere bene qual è la relazione che verrà fatta dagli Stati Uniti e come verrà informata l'Unione Europea. Barroso e Van Rompuy, dicevamo, sono intervenuti alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, dove domani si vota il bilancio europeo e dalla Commissione l'annuncio per voce del Presidente Barroso. Today I'd like to announce that following our commitment towards the European Parliament. Dopo il nostro impegno nei confronti del Parlamento europeo, la Commissione, ha detto Barroso, ha formato il gruppo di esperti incaricato di studiare sotto tutti gli aspetti di rischi, i requisiti legali e le competenze finanziarie delle iniziative, l'emissione del debito comune europeo sotto le forme, ha precisato, di un fondo di riscatto e di Eurobond. Nell'emiciclo di Strasburgo fanno il loro esordio intanto gli europarlamentari croati, a dare il benvenuto Rebecca Harms, eurodeputato tedesco, presidente del gruppo dei Verdi, intervistata da Euronet Plus. Sono felice che siamo riusciti in questi tempi difficili ad accettare un nuovo Stato membro, era una promessa, ora dobbiamo compiere ciò che ci siamo impegnati a fare. Sono personalmente convinta, dice ancora, che tutti i paesi dell'ex Jugoslavia dovranno aderire quando sarà il momento giusto. I Balcani sono un po' come un buco nero nell'Unione Europea. E questa mattina anche il via libera della Commissione Europea all'acquisizione del comparto aeronautico dell'italiana Avio da parte della statunitense General Electric. La decisione è subordinata ad una serie di impegni volti a salvaguardare però il consorzio Eurojet, che produce il motore dell'Eurofighter, l'aereo da combattimento utilizzato da Italia, Germania, Regno Unito, Spagna e Austria. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo il concorso fotografico L'Europa nella mia regione, promosso dalla Commissione Europea. Per partecipare basta scattare una foto di un progetto realizzato con l'aiuto dei finanziamenti regionali dell'Unione Europea. Sono previste due categorie: il mio progetto, aperta ad organizzazioni che hanno beneficiato dei fondi, e testimone oculare, aperta a tutti i cittadini che hanno visto un progetto nella propria regione. In palio ci sono 1.000 euro in apparecchiature fotografiche e un viaggio per due persone a Bruxelles. La scadenza per la pubblicazione delle foto è il 23 agosto. Per informazioni consultare il sito ec.europa.eu oppure la pagina Facebook della Commissione Europea. E l'Europa vi aspetta domani sempre alle 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.